Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. 28 maggio 1980, Milano. Intorno all'abitazione di Walter Tobagi, editorialista e inviato di punta del Corriere della Sera. I terroristi della brigata 28 marzo attendono Walter Tobagi dalle 8 del mattino. Proprio a quell'ora, Manfredi De Stefano si trova sotto casa del giornalista in via Solari. Paolo Morandini, figlio del critico cinematografico del giorno Morando Morandini, è in bicicletta alla fermata del tram. Francesco Giordano, con funzione da palo, è all'angolo di via Salaino. Daniele Laus è alla guida di una vettura davanti a una trattoria. Marco Borbone, figlio di Donato Borbone, direttore editoriale della Sansoni, società affiliata alla Rizzoli, si trova insieme a Mario Marano nei pressi di un'edicola. Sono le 11. Walter Tobagi esce dalla sua abitazione, volta a destra, pochi metri in bocca a via Salaino. Il racconto drammatico di Mario Marano. Barbone esplode il primo colpo. Il giornalista Walter Tobagi, in una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. In quel frangente che Barbone mi dice: spara, spara. Ed esplodo 3 colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento, va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Nel quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo. Sono le 11:15. Walter Tobagi si accascia sul marciapiede di via Andrea Salaino all'altezza del numero 12. La pioggia battente, le due gambe su una pozzanghera d'acqua, l'ombrello scivola sul fianco, la penna stilografica Parker cade dal taschino e una macchia rossa di sangue si allarga sulla giacca marrone. Forse è già incosciente mentre si piega in avanti, quando i killer della brigata 28 marzo fermano la sua vita con l'ultimo colpo mortale, quello partito dalla calibro 7,65 di Mario Marano. Così stabilisce la perizia del Tribunale di Milano. L'auto con a bordo Daniele Laus, Marco Barbone, Mario Marano e Francesco Giordano si scontra con una Fiat 127 arancione, poi prosegue la sua corsa lungo una via di fuga stabilita da tempo. Via Montevideo, via Dezza, via Cimarosa e via Monferrato, angolo via De Castro. A 2 chilometri dal luogo dell'agguato, i terroristi abbandonano la vettura e si dileguano nella città. Così i colleghi della RAI annunciano la morte di Walter Tobagi. Terrorismo, mattinata di barbarie e dolore. A Milano è stato assassinato Walter Tobagi, del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Walter Tobagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo, da posizioni di estremo coraggio. Con onestà aveva cercato in tutti i suoi scritti, nei suoi discorsi, di scrutare le remote radici della violenza. Walter Tobagi nasce il 18 marzo 1947 a San Brizio, in Umbria. La sua famiglia si trasferisce a Milano. Al liceo Parini diventa redattore del giornale La Zanzara, diventato celebre per un processo provocato da un articolo su sesso e giovani. Dopo la fase del liceo, Tobagi entra giovanissimo nella redazione dell'Avanti. Se lo ricorda bene ancora oggi Ugo Intini, allora capo cronista del quotidiano socialista L'Avanti. Sì, a quei tempi non c'erano le scuole di giornalismo e non c'erano gli esami di Stato per i giornalisti.

sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma c'è, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8, io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Cresti mi fece vedere l'elenco, Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, lo ricordo a lungo, abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. L'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gress: dica pure a Tobagi che quelli lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9. Siamo il 27 maggio 1980, la sera prima di essere ucciso. Fare cronaca tra segreto istruttorio e segreto professionale è il titolo del dibattito organizzato quella sera dall'Associazione Lombarda Giornalisti al Circolo della Stampa. Come coniugare diritti e doveri degli operatori della comunicazione negli anni di piombo? Come conciliare il mestiere di cronista investigativo con la riservatezza imposta da inchieste delicate? Al tavolo della presidenza sono invitati, tra gli altri, l'avvocato Gian Domenico Pisapia, il procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti, il giudice Adolfo Berria d'Argentina, il giornalista Massimo Fini. Walter Tobagi è al contempo organizzatore e moderatore della discussione. È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi, vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta. E sull'informazione quella sera Walter Tobagi esprime tutte le sue opinioni. L'interrogativo è: quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia? C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione? Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della verità come strumento che crea libertà. Il dibattito finisce intorno alla mezzanotte. Walter Tobagi è stanco e nervoso. Almeno 6 chilometri separano Corso Venezia da Via Solari, una sua abitazione. Bisogna dunque attraversare Milano. La sua auto è parcheggiata nel garage vicino a casa, in Via Valparaiso. Così chiede un passaggio all'amico Massimo Fini. Subito si recano in pizzeria con amici e colleghi, rispettando una tradizione ormai consolidata negli anni. Poi i due giornalisti raggiungono la zona intorno al Parco Solari. Sono le 2:30 di notte di mercoledì 28 maggio 1980. Quello di Massimo Fini è un ricordo indelebile. Quella sera eravamo andati al Circolo Stampa, ma non insieme, ci siamo trovati lì e c'era un dibattito sull'informazione, sulla libertà di stampa e i rapporti con la magistratura, mi ricordo. C'era tra gli altri Gian Domenico Pisapia, io c'ero dove Gian Domenico Pisapia. E allora quando è finito il dibattito, io l'ho accompagnato a casa, lui non aveva la macchina, l'avevo io, l'ho accompagnato a casa, abitavamo vicino, e ci siamo messi a chiacchierare sotto casa sua. E abbiamo chiacchierato del più del meno, poi a un certo punto lui mi ha detto che aveva abbandonato le inchieste sulle Brigate Rosse e disse: sai, non voglio morire per questi qui, intendendo per questi qui il direttore del Corriere della Sera che era Di Bella e il vice direttore che era Gaspari Barbellini Amidei. In quel momento, mentre diceva queste parole, piovigginava, era sera appunto, sarà state ormai le 2:30, le 3 di notte, perché ci eravamo fermati a chiacchierare a lungo. Io ho pensato che eravamo proprio pazzi a stare lì sotto in macchina un bersaglio. Mi venne l'istinto di guardare fuori, ma non lo feci per non spaventarlo e non spaventarmi. E niente, poi ci lasciamo con la... siccome eravamo stati con la,